Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolta su Radio 24, Alino. Face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre, nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit. Ce sont les catholiques qui ont été frappés, tous les catholiques. Non alimentiamo la leggenda per cui se noi non attacchiamo questi risparmierebbero l'Europa. Nel senso che l'Europa è stata attaccata quando Daesh era molto forte e viene attaccata ora che Daesh è sotto pressione e vede ridursi di molto la propria presenza. È una notizia terribile che purtroppo si aggiunge a tante altre notizie estremamente drammatiche che abbiamo avuto negli ultimi giorni, e questo ci sconcerta e ci sconvolge. Il Papa partecipa molto profondamente, ha mandato anche un messaggio all'Arcivescovo di Rouen dicendo la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie delle vittime, alla comunità che è stata così profondamente toccata. E allora, cari signori, sono le 6:31 minuti. Si sente un po' il peso in questi giorni di anche la responsabilità di essere qui davanti al microfono, eh? Ve lo confesso, ogni parola poi viene presa, carpita, utilizzata, spezzettata, strumentalizzata. Bisogna avere, come dire, pensare 10 volte prima di dire le cose. Però ci risvegliamo e abbiamo visto in Francia cosa è successo con due militanti dell'ISIS, così almeno l'ISIS ha messo il cappello su questa azione, che sono entrati in una chiesa in Francia e hanno sgozzato il parroco. Allora voglio salutare Mirko da San Posidonio, Claudio da Padova, Mimmo da Gazzano, mercoledì anche qui a Basilea. Oh, un ascoltatore che ci segue da Basilea, in diretta in questo momento. Ciao dal casello Roma Nord, evviva caro Silvio da Terni, pendolare, evviva il casello di Roma Nord. No, magari tu non ami molto il casello di Roma Nord, però... questo è. Oh, attenzione, ma devo dire che leggere i giornali oggi, pensavo a alcuni giornali anche più duri. Secondo me il senso della responsabilità si sente in questo momento in cui è facile dire guerra di religione, facciamo la nuova crociata. Io, che da tempi anche più lontani ho sempre detto che la religione c'entra e come, a mio modo di vedere, sono il primo a dire che non c'entra la guerra di religione. Dire che la religione c'entra non significa dire che è una guerra di religione. L'italiano è una lingua precisa, non strumentalizzate quello che uno dice. La religione c'entra, perché se due persone entrano in una chiesa per sgozzare il parroco, qualcuno mi dovrebbe spiegare come si possa pensare che la religione in tutto questo non c'entra. Sarebbe come dire che le Brigate Rosse non c'entravano nulla con l'interpretazione del comunismo. Cioè sarebbero è una follia, è come trovare un elefante nella propria sala da pranzo e non accorgersi che c'è un elefante. Sarebbe come proprio non guardare in faccia le cose. Però non è una guerra di religione, ne sono convinto. Non è una guerra di religione. Qualcosa bisogna attendere, forse dovremmo attendere l'illuminismo nell'Islam. Arriverà il momento della ragione, dei lumi, in cui si capirà che da un lato c'è lo Stato, c'è il potere, c'è la politica, dall'altro c'è la Chiesa, o meglio la moschea, per chi ha fede vada a pregare, e le due cose devono essere separate. Arriverà anche da loro, non lo so. Intanto alle 6:34 minuti voglio salutare il direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Ciao direttore. Buongiorno. Eccoci qua, è l'ultimo mercoledì, poi prometto non vi sveglio più, Vabbè, ci sveglieremo noi. Sì, questo sicuramente, non c'è dubbio. È anche il momento della nostra rossa preferita. Ma buongiorno Dir, buongiorno Alino. Lei continuerà tutta l'estate invece. Concordo in pieno, non tutta l'estate, ma concordo in pieno con il nostro direttore. Noi dal primo di agosto, tutte le mattine alle 6:30 ti faremo una telefonata. Va bene. Tutti noi, cioè, ci sarà l'attesa, perché tutti noi ti chiameremo. Perfetto, tutti gli ascoltatori. Grazie tanto sarai qua. Sarò a Roma. Radio Paola. Certo, Radio Paola tutta la notte. Grazie per questo incipit che hai fatto, Alessandro. Che bello, che belle cose che hai detto, che cose giuste. Le parole vanno pesate, soppesate, analizzate e poi dite. Di questo abbiamo bisogno più che mai. Bisogno di questo. E abbiamo bisogno anche di Radio Paola tutta notte. Ci sono. Più Radio Paola ci sarebbero meno attentati, io ne sono convinto. Nel mondo. Più amore. Come ha detto il vescovo, ecco, però cioè, io capisco anche la posizione del vescovo di Rouen, che dice: l'unica risposta è l'amore. In un mondo molto bello, caro Monsignore di Ruanda, l'unica risposta è l'amore. Non lo so, forse l'amore non basta, l'amore servirà, ma vabbè, vediamo un po'. Allora, apriamo il Parlamento perché voglio il vostro parere. Io quello che dovevo dire l'ho detto. Caro Luca, sono momenti in cui sì, sarebbe facile mettersi a urlare: dai, partiamo per una nuova crociata. No, ma quello che hai detto è sacrosanto, cioè non si può. Cioè, io sono stufo anche di sentire discorsi: questo non è l'Islam. È ovvio che questo non è l'Islam, c'è bisogno di dirlo. Però sono persone, se i pazzi, i disadattati, i cretini, gli assassini. Uccidono, però se a un certo punto una religione, per sua disgrazia, ha quasi il monopolio di questi qua, bisogna che si faccia qualche domanda. Certo. La religione è una vittima in questo senso, però bisogna che prenda coscienza di questo fatto. Non si può continuare a dire non c'entra niente. No, ma infatti il problema poi lì è che, per come è strutturata, è stato detto molte volte anche da chi è esperto di religione, non c'è una gerarchia nell'Islam, non c'è il Papa, voglio dire. Però era molto giusto quello che tu hai fatto, un parallelismo con le Brigate Rosse. Un giorno fa è stato massacrato un nostro collega Gramellini per aver detto, insomma, che una risposta deve arrivare, che una soluzione deve arrivare anche dai musulmani. E poi lui si è spiegato meglio, cioè esattamente come non è che i comunisti fossero complici delle Brigate Rosse, anzi. Però a un certo punto si è presa una tale coscienza per cui le Brigate Rosse si sono trovate sconfitte, e sono sicuro che succederà anche io sono convinto, sono ottimista, cioè non ho mai visto vincere nessun terrorismo, quindi non capisco perché questa dovrebbe essere la prima volta che un terrorismo vince, bisognerà, perché di fronte alla soluzione io credo davvero questo, che ci saranno bisogna aiutare quell'Islam che è molto diffuso, che dovrà cercare di frenare questi rigurgiti di violenza, questi estremismi, ci sarà io ho detto ci sarà, confido l'illuminismo anche dell'Islam, non lo so, loro sono nati in fondo come religione dopo di noi, 630 anni dopo di noi, arriveranno anche loro all'illuminismo. Ci deve essere quella cosa che dici tu, cioè ci deve essere un moto di rigetto verso chi anche molto vicino a noi, per dire in Turchia, continua a pensare che la soluzione possa essere di mettere insieme Stato e Chiesa, invece sì. Diciamo che i guai e i disastri che quella cosa lì ha fatto l'abbiamo scoperto tanto tempo fa, sarebbe ora di guardare libri di storia e basta. La verità, Paola, che poi insomma non si è sicuri, questa è la drammatica verità con cui dobbiamo convivere anche in una chiesetta che non era, come dire, una chiesa centrale a Parigi, no? No, allora, quella è stata la ferita nella ferita e la morte nella morte, e pensare che si possa attaccare non il grande centro commerciale, non, come dici bene tu Alessandro, non la grande chiesa nella grande città, ma un luogo qualunque. Certo, se hai un braccialetto elettronico e sei libero per 4 ore e in quelle 4 ore sei operativo, perché vedilo dall'altra parte, forse bisognerebbe interrogarsi anche, oltre su tutte le cose che voi state dicendo, che sono tutte giuste, ribadiamo, sacrosante, anche sulla libertà che viene accordata a certi soggetti, a certi individui, che hanno, come dire, già dato ampiamente prova e riprova di essere capaci di. E quindi quando si trattano certe situazioni con quell'amore verso la libertà che non puoi avere nei confronti di determinati individui o determinati soggetti, però questo non è poco. A quest'ora questo sacerdote sarebbe vivo, a quest'ora sarebbe viva, o meglio non ci sarebbe pericolo di vita per un'altra persona, ma non è abbastanza, è sicuramente su questo l'Islam, non l'Islam moderato che a me dà un fastidio fisico, sì, ma infatti sentir nominare, l'Islam in quanto tale, come non era fede quella che portava gli uomini sul rogo, non era fede quella che portava Giordano Bruno a salire sul rogo in piazza di Campo dei Fiori, va bene? Si arriverà a capire, speriamo con una tempistica molto più ridotta, che non è fede quella che infatti, ma prima dell'illuminismo anche noi vivevamo il potere della Chiesa, che voleva dire in alcuni casi, come hai detto tu, rogo, le persecuzioni alle streghe, abbiamo capito il nome per conto di non era il nome per conto di, ma è chiaro, l'abbiamo capito. Adesso, l'operazione va accelerata, però va accelerata perché siamo un mondo più veloce. E va accelerata. In tutto questo, forse, per carità, è lungi da me dare lezioni di sicurezza, sono l'ultimo a poterle dare, però la Francia si deve porre anche una questione, perché l'ultimo che ha colpito ieri era in carcere fino a marzo, è uscito con il braccialetto elettronico, infatti aveva 4 ore per colpire, nel senso che è uscito... Quanto basta, purtroppo. Cioè, una domanda profonda sulla sicurezza, la Francia, no? C'è anche tutta la polemica di Nizza, dove si è capito che non c'era una protezione adeguata da parte della polizia rispetto a tutta quella massa di persone. Luca, il problema è quale risposta dare, perché noi non siamo abituati, si dice sempre vivere come in Israele, ma noi non siamo abituati a quella cosa lì, non siamo in guerra perenne. Fatalmente ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando a poco a poco. Fatalmente succederà quello che è successo in altre occasioni. Non è mai bello quando vengono varate legislazioni di emergenza, però penso che alla fine sarà quello che succederà. Dovremo rinunciare a un pezzettino della nostra libertà e soprattutto a un grosso pezzettino della libertà di questi, vabbè, non mi farò usare parole. E quindi succederà che uno che ha questo tipo di passato non esce assolutamente per 4 ore. Però veloci, Luca. Dobbiamo abituarci, ma dobbiamo essere veloci. L'unica cosa che si implora è la velocità a questo punto. Guarda qua, è brutto dire che avere un precedente per sospetto terrorismo islamico è diverso da avere un precedente per un altro tipo di terrorismo, però in questo momento diventa dirimente, secondo me. Spunta addirittura, racconta il Messaggero, nel dibattito francese, che è molto più vibrante rispetto a noi sulla sicurezza, perché è chiaro, Nizza, quello che è successo ieri, e oltre che Parigi ovviamente, e spunta l'idea, guardate, la leggo qui dal Messaggero, ci vuole una Guantanamo francese, la prigione per i jihadisti. Sì, vabbè. Lo so, ma qua ci si dibatte. Infatti Guantanamo ha portato molti, molti buoni risultati. No, no, di essere di moda la divisa arancione, Guantanamo. Qualcosa però andrà fatto qui. Questo è nel dibattito, ovviamente. E il rischio è come quando si urla è una guerra di religione, il rischio è di fare qualcosa che sia qualcosa di improvvido, ecco. Però qualcosa deve essere fatto dal punto di vista della sicurezza. Questo messi insieme un tot di teste pensanti, qualcosa si riuscirà a fare. Messi insieme un tot di, come dire, sicurezze, cioè o cura della sicurezza nazionale che diventi internazionale, quindi sovranazionale di più nazioni, magari parlandosi, degli esempi che noi abbiamo avuto in Belgio sono stati agghiaccianti, no? Quando hai 13 polizie, 15 polizie, 7 polizie, ne bastano anche 4 che non si parlano tra loro. Allora, forse da una parte, per questo mi permetto, figurati, io non so risolvere i problemi del mio condominio, ma intendo dire essere ma chi veloci. Chi sa risolvere i problemi di un condominio? Nessuno. Ma quella, apriremo un'altra pagina, e ci vuole anche un sorriso, essere veloci. Significa forse parlare di meno, cianciare di meno e diventare immediatamente operativi, anche facendo attenzione che se ti viene richiesto un fermo e tu non lo dai perché vuoi essere più garantista, sì. Attenzione, ma sì, va bene, sta tutto bene, ma poi la garanzia permette a determinate persone di avere piede libero, mano libera soprattutto, e di fare quello che hanno fatto. E purtroppo sì. Allora facciamo così. Ribadiamo, buonismo è la malattia più grave e feroce degli ultimi anni. Buonismo, attenzione. Questo sì. Solidarietà. Poi quindi per poi concludere questo ambito ci vuole sì l'amore, come dice il vescovo francese. Sì, però ci vuole l'amore, va bene. Però ci vuole anche di agire, fare qualcosa l'amore per proteggere. L'amore non vuol dire amare chi sta nel mare, vuol dire amore per noi stessi e per quello che abbiamo. Sì, io ribadisco che questo è vero, cioè smettiamola di disputare su quello che abbiamo, sulla nostra libertà, sulla nostra civiltà, sulla tolleranza che abbiamo costruito pagando degli altissimi prezzi. Quindi in questo senso sì, amore ci vuole. No, ma su questo non c'è dubbio. E difesa strenue però di questa libertà contro chi la vuole scalfire in ogni modo. Sì, anche fare un giro in Turchia dando un'idea e capendo esatto. Che cosa voglia dire essere persone libere, così, ma è un passo, tanto che c'è sempre il chilometro zero. Non è solo nella bontà dell'insalata che mangi o di quello che porti sul tavolo, sulla tavola ogni giorno. C'è anche il chilometro zero che ti permette di vedere che cosa hai dentro casa, poi allungati solo di qualche chilometro più in là e vedi che cosa voglia dire assenza di libertà, assenza di giustizia e assenza, mancanza. Ovviamente Corrado da Parma dice: avete rotto coi vostri distinguo. Corrado vorrebbe che la vita fosse bianco o nero, che venissimo qua a dire allarmi alle crociate. Corrado, la vita è un po' più complicata, le vicende sono un po' più sfumate, ci vuole, come dire, applicarsi un po' per cercare di capirle, se no vabbè ci svegliamo e tra uno spritz e un caffè magari corretto diciamo alle crociate. Per ora andiamo al traffico. Manda il traffico, dammi il traffico per favore, il traffico. Dottor Milan, la prego, non faccia come l'anno scorso che sparisce il 30 di luglio e ci ricompare il 15 settembre. Minchia Milan, ma ti fai un mese di ferie? Dai Milan, dai che è iniziata la giornata, dai cazzo che dobbiamo andare a raccogliere i pomodori. Notizia da Mani sul Volante: venerdì Alessandro Milan va in vacanza. Cara Paola, io al mattino non mangio perché penso a te, al giorno non mangio perché penso a te, alla sera non mangio perché penso a te, alla notte non dormo perché c'ho fame. Ciao Paola, sei stupenda. Questo ce l'aveva scritto, ce l'ha voluto, te lo ricordi, settimana? Te l'ha voluto anche decantare. Che carino. C'ha fame, poverino, c'ha fame. Fame. Povero cucciolo. Ancora ogni. Ma guardate che siete noiosi. Ogni anno di sti tempi c'è la questione delle ferie di Alessandro Milan. Poi, eh? Ma poi a parte che quello dice vai via il 30 agosto, a parte che il 30 luglio, a parte che vado via il 29, cioè siamo precisi, so, siamo se, precisi. Proprio, se proprio dobbiamo, dobbiamo. E poi non è vero che torno il 15 settembre, ma il 5 settembre. Quindi... Alle 9.31 del 29 luglio si vedrà, sai come metti la nuvoletta? Sì, sì, stop, via, via, tu via, scherzi, via, tu via. Scherzi, ma alle 11 avrò un treno, quindi devo spostarmi. No, vabbè, ma a parte quello, ma poi insomma sempre le solite polemiche, mamma mia. Ho fatto come Anna La Rosa della Rai, che ha detto che aveva un anno di ferie arretrate, è andata un anno in ferie a seguire la Clinton, io vado solo un mese, insomma, a seguire, non lo so, a seguire me stesso. Allora, Roma, cara Paola, Roma, come va a Roma? Perché ho letto una bella notizia su Roma, stanno per riaprire la discarica di Malagrotta. Del signor Manlio Cerroni, 90 anni, che oggi a Repubblica fa un'intervista di quelle spettacolari. Dice: invece di ringraziare Dio che esisto io, mi creano problemi e preferiscono una Roma invasa da topi e cinghiali. Questo ha detto. Perché sì. Noi non ci facciamo mancare nulla adesso, anche i cinghiali, ma come va? Una bella notizia su Roma, io ho detto. Dove l'ha letta? Quando? No, infatti non ho detto che era una bella notizia. Volevo ecco. Sapere come va lo slalom tra i rifiuti. Guarda qua i giornali, lo slalom tra i rifiuti. Come va? Ci stiamo specializzando. Ci stiamo specializzando. I più ricorderanno, ma devono essere un po' più grandini di età, il grande Alberto Tomba, che sì, quanto sì, slalom grande, e grande. Non era secondo a nessuno. E è una città complessa e complicata. È complicata. Ribadiamo, complessa e complicata, ma stiamo aspettando che, insomma, perché mai peccare di facile cattivo umore e di poca speranza che arrivino delle soluzioni, perché sì. devono arrivare e speriamo a breve. Abbiamo bisogno di aiuto, di è una città che ha bisogno sì. d'aiuto, ma soprattutto tanto... sui rifiuti. Adesso questo è il problema. Sì, sì. Il problema. I cinghiali, devo dire. I cinghiali, guardate, io poi li conosco i giornali. Qua abbiamo un esempio, il direttore che ne rappresenta una parte dei giornali. Io lo so, adesso ci sarà il primo avvistamento di coccodrillo nel Tevere. Vedrete, sarà. E sono topi. Sarà il gioco dell'estate. Direttore, di la verità, di la verità. Che tra po' sono partiti i topi, poi i serpenti, adesso i cinghiali. E prima o poi qualcuno dirà di aver visto un coccodrillo nel Tevere. Stai pronto, caro Luca? Stai pronto, perché... Sciacalli, sì, quelli ce ne sono. Ma io speravo che dalla regia partisse il coccodrillo. Coyote. Come fa? Ah, no, il coccodrillo come fa? No, perché... Coyote anche, ha detto coyote. Sì. Coyote arriverà. Il coyote arriverà, forse il coyote è già tra noi, non lo so, gli sciacalli sicuramente. No, va bene, volevo chiedervi questa cosa, chiedere il vostro parere sul tema della legalizzazione della cannabis, perché tra tutti no. questi dibattiti, che c'è Luca? Sei contento? No, è un tema interessante. Stavi rollando una canna? No, assolutamente no. No. Però io sono, che dire, io sono... Ma basta guardare dove è successo per essere favorevoli, poi uno vuole fare distinguo assurdi per farlo. Può farlo. Perché... Ritengo che sia tutta una questione culturale. Cioè tu quindi sei favorevole, dici proviamo, perché ma no? Sai, è un modo di combattere la criminalità, non è che lo dico io, lo dicono i risultati dei posti dove è stato fatto. E pensare di continuare a... cioè è un po' come pensare da domani di tornare al proibizionismo, cioè un po' andare all'indietro. E il dibattito aperto, l'atteggiamento politico, ecco, per esempio alcune dichiarazioni politiche, sentite il sottosegretario della Vedova, che è quello che ha portato avanti la legge, anche se poi è una legge parlamentare, adesso lui sta al governo, della Vedova. Chi produce l'hashish? L'ISIS, la mafia stessa anche in Italia, e le organizzazioni i talebani in Afghanistan. L'ISIS, cioè ti imbalo l'ISIS, e Formigoni dall'altra parte, sentite Formigoni. Chi di noi salirebbe tranquillamente su un aereo se sapesse che il pilota o i piloti si sono appena fatti una canna? Nessuno. Cioè, capite il livello del dibattito? No, come no. Dire se invece il pilota si è fatto 10 gintoni. Ma infatti, ma poi cosa vuol dire? Cioè, che sia legale o che non sia legale, il pilota non dovrà prenderla per legge, ci saranno i controlli, che sia legale o che non sia legale. Il pilota non potrà farsi 7 whisky, non potrà, non lo so, neanche mangiare, credo, 7 stinchi di maiale al forno, perché magari ha una congestione e non potrà essere formigoni. Vabbè, spero che non sia formigoni, non credo che abbia il brevetto per pilotare un aereo, non so. Sono i 7 stinchi al forno. Se te lo vedi il pilota che si accascia sulla cloche e viene accusato, aveva mangiato 7 stinchi al forno, era drogato di grassi. Non mi aspettavo i sette stinchi al forno con patate per farle un po' più pesanti, cioè, capite? Vabbè, niente, adesso Paola non ti posso chiedere un parere, finisci pure di ridere, poi il 2 agosto ci dirai cosa ne pensi. No, scusate, divento seria, ci provo, però è bellissimo. No, ma nel senso, io sono un po'... L'immagine è stupenda. Sono un po' sconvolto, sono un po' sconvolto dal tipo di persone che affrontano questo tipo di dibattito, ecco, questo sì. Cioè, se le argomentazioni sono queste... Giovanardi non ha detto niente. Giovanardi sì, ha parlato, figurarsi. Certo, è un dibattito lungo, Alessandro, faccio io lo slalom rispetto alla tua domanda, ma è un dibattito lungo. Poi lo stinco di patate l'ha ucciso. Questo diciamo la verità, lo stinco. Scusa, ti chiedo veramente scusa. Io purtroppo quando attacco a ridere rido, e questo è una cosa che non andrebbe fatta in va bene. No, facciamo così, perché abbiamo 40 secondi per chiudere, e quindi vorrei che tu ci lasciassi così tutto questo mese con questa bella ridarola. Ti è mai capitato in onda in TV? Anche a me in radio, è terribile. No, allora andiamo indietro. Mi capitava a scuola, sì. La mia meravigliosa professoressa al liceo, alla prima rimase un po' così, alla seconda faceva tranquilla, vai fuori, non ti preoccupare. Vai fuori, vai perché vai poi diventava contagiosa, perché è contagiosa. Certo, è contagiosa, però meravigliosa, è contagiosa, è bellissima. È un tipo però di contagio. Sì, esatto, è bella dirlo. Allora, io vi devo salutare, vi devo ringraziare per questa stagione molto lunga. Vi lascio con Vanity Fair e con Selena Gomez in copertina, che in qualche modo accompagni l'estate di tutti voi, cari maschietti. Ti va bene, noi? Caro Luca, così. E te, aspetta, vediamo. Cosa proponi per le donne? Luca, sono bellissime letture. Ma bellissime letture, esatto, scusa, bravo, Selena, bravo, ecco, no. Vedi, questo è il livello uomini donne. No, noi Selena Gomez. La prossima italese, appunto, le donne sanno leggere, quindi esatto. Italese, eccetera. Finalista del Campiello, racconti inediti, c'è molta narrativa. Noi invece Selena Gomez. Esatto, noi Selena Gomez invece. Tu guardi le figure. Certo, io guardo le tutti figure sempre. A malapena le didascalie. Va bene, vi devo salutare, vi mando un grosso abbraccio, più stinco di patate per Paola Saluzzi. Ciao. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:18 ormai, quasi, Tra 10 secondi, 9, 8. 7, qui a Radio 24. Allora, siamo pronti nella lettura dei giornali in questo che è il mio terzultimo giorno di lavoro qui prima delle ferie.